fa? Intanto bisogna sapere che cosa vuol dire un centro qua. Questo qua, che chakra è questo? Il quinto, chakra della comunicazione, chakra dell'espressione di sé. E quasi tutte le persone hanno dei blocchi lì, perché da quando sono bambini in certe espressioni sono stati bloccati. Per esempio bloccati in certe espressioni di certe emozioni, può essere il pianto, la rabbia, paura, anche la gioia. Sono gioioso, dice, cosa c'è? Ecco. Tu puoi chiederti, così come domanda, nella tua vita, se tu tornavi da piccolo a casa ed eri tutto contento, tua madre era felice mentre ti vedeva contento? Punto. Domanda. Due. Se tu eri arrabbiato, tua madre e tuo padre accoglievano la rabbia, la riconoscevano e ti aiutavano a trasformarla senza giudicarla? E così via. La tristezza. Allora qui nella gola, quando noi per appartenere, quando piccoli, appartenere alla famiglia, per essere al sicuro, impariamo a contrarre quei tipi di espressione che vediamo che non sono approvati, che non sono riconosciuti, che non sono ben visti. Cioè ci adattiamo al sistema e per adattarci barattiamo per l'adattamento un po' della nostra felicità del momento e della felicità nostra futura. Quando noi non riusciamo più a esprimere chi siamo in quel momento, pian piano impariamo a non riconoscere più che cosa stavamo per esprimere, a non sentirlo più e quindi a generare una contrazione. Contraiamo la gola, contraiamo determinati muscoli, contraiamo determinate parti del viso e quindi quello che non è stato visto, riconosciuto, permesso da fuori, impariamo a non vederlo, riconoscerlo al nostro interno. Okay? Quindi tu rifletti su questo e allora se scoprirai può darsi che la rabbia, la tristezza, la paura, determinate emozioni, determinate, non potevi esprimerli, e dopo un po' si genera qui qualcosa e questo rimane iscritto nel corpo anche per tutta la vita. Okay. Allora il passaggio per sbloccare qua, ci sono lavori sia sul corpo ma anche lavori sui permessi che tu devi ricevere cambiando la storia dei tuoi ricordi e rivivendo determinate situazioni che hai vissuto insieme all'ego dei tuoi genitori. Mettere, vedere l'ego dei tuoi genitori e sostituirla, l'anima dei tuoi genitori, cosa avrebbero fatto se l'anima avesse potuto intervenire, cosa che non ha fatto in quel momento lì, e quindi l'anima ti avrebbe dato, tua madre o tuo padre, avrebbe dato a te quei permessi che se avessi ricevuto oggi non avresti il blocco. Ma siccome il blocco non è cagionato dal passato, ma è cagionato dai ricordi che sono attuali nella tua memoria, basta cambiare quei ricordi, riscrivendoli, e quel blocco se ne va. Quindi oggi abbiamo la possibilità di cambiare il passato, perché il passato non esiste più, quindi non c'è da cambiare niente. Abbiamo la possibilità di cambiare il presente. E nel presente ci sono le tracce del passato. Queste tracce possono essere cambiate. Come? Così. Sapendo usare questo linguaggio, perché con quest'altro non ci riusciamo, ma col linguaggio questo riusciamo ad andare nelle tracce che sono attuali, quindi cambiamo sempre e soltanto il presente.